Poi nell'opuscolo abbiamo trattato molto spesso anche il ruolo, come dicevo prima, dei vari spalleggiatori di TAP, insomma, soprattutto degli esperti, dei professori dell'Accademia, ma di questo magari parlerà meglio Federico, insomma. Sì, appunto la questione del TAP dimostra che è una lotta su tutti i fronti, no? Una lotta trasversale. Come è stato detto prima, non si tratta soltanto di ambientalismo, che è importante, diciamo, una visione ecologista radicale di abbattere una struttura nociva che si spaccia per portatrice di benessere, perché ci porta più gas, ci porta più energia. Ora è una struttura che devasta il territorio, ma devasta anche la dignità umana e la libertà di essere. Anche perché tutti stanno esprimendo, tutte le istituzioni, tutte le strutture di potere stanno esprimendo favore nei confronti di quest'opera, dall'Unione Europea, dallo stesso Stato italiano. E c'è anche una certa forma di supporto da parte del piccolo capitalismo locale salentino, no? Del capitalismo turistico, del piccolo, che difende, appunto, è stato detto prima che la vocazione turistica, diciamo, è stata sempre uno degli aspetti principali del Salento. Cosa che poi, tra l'altro, ha anche plastificato un territorio e l'ha cercato di trasformare in un paese dei balocchi per ricchi turisti. Per questo la maggiore preoccupazione che si esprimeva nei giornali, anche attraverso figure politiche, era soltanto la bellezza turistica che ne verrebbe lesa. Voglio dire, scusate, la vocazione turistica, no? Magari la bruttezza, diciamo, di un gasdotto che può stuprare il territorio potrebbe far venire meno turisti. Questa era la preoccupazione maggiore che ne viene. Cioè, intanto, questa sicuramente non è l'aspetto che ci interessa, quello della vocazione turistica, perché mercificare il territorio non è soltanto quello che fa TAP, ma anche quello che fa, diciamo, la privatizzazione dei territori, che trasforma il territorio in un villaggio turistico per tutti, insomma. Anzi, abbiamo gli ultimi fatti. Le ultime mosse di propaganda, poi sostenute da grandi uomini di marketing, grandi operatori commerciali, ha dimostrato pure che vocazione turistica e devastazione dell'ambiente col pretesto dell'energia possono andare benissimo di pari passo. Infatti, in quest'estate, diciamo, si è mossa una forte sponsorizzazione di TAP in tutte diciamo, in tutte le attività di interesse turistico, per accattivarsi la gente, per accattivarsi la popolazione, per promettere appunto un futuro con più lavoro, con più occupazione, per accattivarsi la gente, per ottenere il consenso, hanno fatto cose assurde, aberranti, tipo hanno sponsorizzato le feste patronali, finanziando le luminarie delle feste, un modo insomma per dare un'idea che progresso distruttivo e folklore e cultura popolare possono essere ben conciliabili. Infatti lo slogan della propaganda TAP è energia a vocazione turistica, che noi traduciamo in distruzione a vocazione turistica, possono essere ben conciliabili appunto. Come detto prima, appunto, ci sono tutti gli esperti in ogni campo, scientifico, economico, politico, fanno fronte comune, diciamo, per dare della TAP un'immagine magnifica, un'immagine di beneficio, insomma, che porterebbe al territorio. Addirittura negli ultimi tempi si è saputo che hanno messo pure in campo la consulenza di un noto politico internazionale, che è Tony Blair, che farebbe addirittura consulenza politica per portare avanti il gasdotto nel Salento. L'università, in quanto struttura che crea cultura di potere, sta dando il suo contributo al TAP, mettendo avanti docenti di scienza, docenti di biologia che dimostrano con le loro tesi scientifiche, con la loro autorevolezza scientifica del cazzo, che il TAP non farebbe nulla di male. Questi sono anche dei tentativi, come detto prima, appunto, per far capire che chi si può permettere a parlare bene o male di TAP possono essere soltanto degli esperti. Questa cosa può distruggere proprio la possibilità di creare una lotta orizzontale, una lotta dal basso, appunto. TAP sta portando avanti anche la solita retorica dell'occupazione, appunto, delle ricadute economiche positive, puntando anche sulla ricattabilità dei proprietari terrieri, dei piccoli capitalisti del territorio. Infatti, notizia recente è che riescono anche a ricattare per 500 euro proprietari terrieri per vendere il territorio dove dovrebbe essere fatta il terminale di ricezione TAP per fare, insomma, degli studi di prospezione geologica per verificare la validità del territorio. cioè non ci mettono niente, insomma, a ricattare appunto quella, puntando appunto sulla povertà economica, la gente che possiede questi territori. In ogni modo, appunto, stanno tutte le forme di potere. Questo spiega appunto che si tratti di piccoli capitalisti, che si tratta di Unione Europea, che si tratti di Stato, tutte le forze istituzionali si stanno mettendo a favore, tutte. La lotta al TAP non sarà sicuramente una lotta che riguarda semplicemente un gasdotto, ma riguarda tutte le varie strutture di potere.